Incontri di Gianfranco Fabi. Note dell'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach, iniziamo gli incontri di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica e buon Natale ovviamente a quanti ci ascoltano, e buon Natale a Don Antonio Sciortino. Grazie, buon Natale a tutti voi. Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, il più diffuso settimanale italiano, il più diffuso settimanale cattolico, poi sui numeri ci possono essere tante interpretazioni, comunque un settimanale grandemente diffuso. Buon Natale anche a lui. Buon Natale, è il titolo forse del suo editoriale di questo numero di Famiglia Cristiana? Sì, ho fatto un editoriale proprio intitolato così, Il Natale del Cuore nonostante la crisi. Credo che quest'anno il Natale sarà un po' in tono minore per quanto riguarda le famiglie italiane, perché anche con l'IMU, il pagamento dell'IMU, si sono ritrovate a non avere più soldi, forse ad avere già investito la tredicesima o quei pochi soldi che avanzavano, e si ritrovano a non poter fare forse neanche regali ai propri figli. Un Natale di crisi, però dalla crisi io credo che possa venire anche qualche seria riflessione su che stile di vita noi stiamo proponendo in questi tempi. Ecco, forse si può anche riscoprire l'essenzialità, cercare di andare oltre. Certo. L'immagine, cercare di andare, certo, oltre a quelle che sono le abitudini, andare a ricercare. Ho scritto che la crisi comunque non ci può togliere il Natale del cuore, non ci può togliere quei sentimenti, quei legami, per cui la crisi ci può dare l'opportunità di una riflessione. Forse dovremmo pensare a una vita più sobria, possiamo anche pensare a una vita più solidale, perché questo paese ha una grande disparità, perché è vero che c'è la crisi, ma per alcuni la crisi non c'è mai, la crisi è per le famiglie che non arrivano a fine mese. Allora questo paese dovrebbe riflettere in questo Natale su una maggiore equità. Proveniamo da un lungo periodo di rigore, di tasse che sono gravate prevalentemente sulle famiglie, sui lavoratori, sui pensionati, ma questo è un paese che ha il 10% della popolazione, che possiede il 50% della ricchezza nazionale. Se non siamo riusciti con la politica a scuotere le coscienze, magari in un periodo così natalizio pensiamo a chi davvero ha meno degli altri, una maggiore equità sociale, una maggiore giustizia. Ecco, però è anche un paese in cui la solidarietà c'è, la solidarietà si esprime, la solidarietà è un dato di fatto che forse resta un po' sotto traccia, resta un po' nascosto. Anche voi cercate però di portarla alla ribalta, cercate di dare dei buoni esempi, delle buone notizie. Possiamo dire che Famiglia Cristiana è anche un giornale di buone notizie? Certo, diamo buone notizie. In questa occasione di Natale la buona notizia è la nascita del Salvatore. Ho cominciato l'editoriale dicendo che, citando Tagore, poeta indiano, che dice che ogni bimbo che nasce è un segno che Dio non è stanco degli uomini. E allora questa è la buona notizia, ma vorremmo che la buona notizia fosse anche quella di una società più solidale. C'è tanta solidarietà in Italia, però bisognerebbe dare una mano a questa solidarietà, perché a volte anche da parte delle istituzioni, delle politiche, sembra quasi che si voglia penalizzare chi dedica il proprio tempo, la propria gratuità a servizio degli altri. Bisognerebbe far prevalere questo principio di sussidiarietà, aiutare chi fa del bene. In questo paese ci sono tante persone che fanno del bene, ma aiutiamole. Ecco, aiutarle. Quindi l'augurio di buon Natale, lo abbiamo ripetuto spesso, l'abbiamo sentito, lo diremo ancora in questi giorni fino a Natale. Buon Natale rischia di essere un po' un rito, una ripetizione. Ecco, come far sì che non sia solo un augurio di avere una buona giornata serena in famiglia a Natale, ma un Natale che riesce a prolungarsi anche durante. Bisognerebbe superare un po' quelle tradizioni che poi si risolvono negli auguri o si risolvono in un pranzo natalizio, negli incontri con gli amici. Cose anche importanti. Cose importanti, importantissime, perché è bene che la gente si ritrovi e non ne stia assolutamente isolata, che almeno una volta all'anno il valore della famiglia prevalga. Però bisognerebbe che ogni tanto pensassimo non solo alla festa, ma anche al festeggiato, perché spesso diciamo buon Natale, ma ci dimentichiamo che cosa rappresenta il Natale. E ci dimentichiamo che è la festa di qualcuno. Allora magari una riflessione in più che porti il Natale a non essere semplicemente una festa di circostanza, ma qualcosa di significativo per chi crede, ma anche per chi non crede, perché questo bambino è portatore di un messaggio di amore e di solidarietà. Io in questi ultimi tempi ho risposto a tantissime lettere a insegnanti e docenti, preside, che hanno voluto togliere il presepe dalle scuole perché questo era un segno di rispetto per i bambini di altre religioni. Ho detto che è quanto di più sbagliato ci sia in questo. Noi non siamo chiamati a rinunciare alle nostre tradizioni, siamo chiamati a integrare anche culture e tradizioni diverse che nasce dalla reciproca conoscenza, dal reciproco rispetto, un discorso certo. Molto importante che Natale porta alla luce. E rispettare appunto gli altri non vuol dire rinunciare ai propri valori, politicamente corretto. Riceviamo molti bigliettini con su buone feste, perché forse si ha un po' di pudore a dire buon Natale, bisogna dirlo invece forte e chiaro. Buon Io Natale. Ho pubblicato una lettera di un insegnante che fa il presepe per non privare i bambini di questa tradizione, però non può dire che questo bambino è il figlio di Dio, si deve limitare esclusivamente a dire che è un bambino particolare, dare qualche cenno storico sulla nascita, ma questo è un'offesa anche alla verità. Non ce lo chiede nessuno di rinunciare alle nostre tradizioni. Le vere religioni sono per un dialogo, sono per la vita. Quanto si uccide in nome di Dio, questo è il segno evidente che è un'esagerazione, un'esasperazione della religione. Le vere religioni sono per il dialogo e per la vita. E una festa come il Natale ci può aprire alla conoscenza anche di altre tradizioni religiose, di altre culture. A maggior ragione perché oggi l'Italia è un paese che è diventato multiculturale, multietnico e multireligioso. Non dimentichiamo che abbiamo 6 milioni di stranieri che vivono su questo nostro territorio. Dobbiamo abituarci a convivere con le altre fedi, con le altre confessioni religiose, ma senza rinunciare assolutamente a nulla della nostra tradizione cristiana, anche perché, come diceva Giovanni Paolo II, l'Occidente o è cristiano o non è Occidente. Le nostre radici affondano davvero nella cristianità. Non riusciremo a capire nulla della cultura, della storia, della musica e della poesia se non conosciamo, anche dal punto di vista culturale, anche per chi non crede, che cosa è il cristianesimo, perché noi siamo nati da quelle radici. E questo in fondo il Natale è un ritrovare, un riscoprire, una ricerca delle origini del cristianesimo, che non è tanto un'ideologia, non è tanto una credenza, quanto l'incontro con una persona. Assolutamente, a maggior ragione questo Natale cade in un anno dedicato alla fede, quest'anno dedicato alla fede, alla nuova evangelizzazione per una testimonianza cristiana, vuol dire davvero riscoprire le nostre radici. Questo è un paese che si dice cattolico al 90, quasi al 100%, ma ormai forse lo siamo solo all'anagrafe battesimale. Bisogna che noi riscopriamo le nostre radici cristiane e diamo ragione e testimonianza della nostra fede. Sì, anche con la forza appunto di una minoranza. Abbiamo visto nei giorni scorsi queste statistiche sui matrimoni. I matrimoni civili hanno superato quelli religiosi. Vuol dire che appunto c'è in fondo una minoranza di cristiani che ha bisogno anche di essere sostenuta, di essere incoraggiata, di essere appunto in questo senso confrontare con una realtà del cristianesimo che ha una sua forza. Sì, questi dati che sono appena usciti dall'Istat di un superamento dei matrimoni civili al nord rispetto a quelli religiosi dovrebbe però farci anche fare una riflessione più ampia su che tipo di società stiamo costruendo, perché questa è una società dove non si ammettono legami stabili, tutto è una società fluida. Allora facciamo un serio ripensamento e soprattutto non perché la famiglia è un po' in crisi noi dobbiamo accentuare questa crisi, dovremmo davvero mettere in moto tutta una serie di aiuti e di sostegni, ma anche la Chiesa stessa deve ripensare a una preparazione al matrimonio, perché non si improvvisa il matrimonio, tantomeno un matrimonio cristiano che è sacramento. La famiglia non è solo la testata del suo giornale, un giornale di grandi tradizioni, ma è anche un'attenzione continua che lei, Don Sciortino, ha verso questo elemento essenziale della società. Ha tra l'altro scritto anche un libro che si intitola La famiglia cristiana, sui sui temi proprio della famiglia. E mi sembra, se possiamo anticipare la notizia, che voi avete eletto la famiglia come personaggio dell'anno? Sì, da alcuni anni dedichiamo la nostra attenzione al personaggio dell'anno. Abbiamo fatto la Boldrini, poi abbiamo fatto il cardinale Tettamanzi. L'ultimo personaggio era stato Napolitano, per come in un momento di crisi istituzionale aveva saputo tenere insieme il paese. Quest'anno abbiamo dedicato il personaggio dell'anno, l'italiano dell'anno, alla famiglia, per come ha saputo resistere e reagire alla gravissima crisi economica. Io in un convegno avevo detto, per come la famiglia ha reagito alla crisi, forse bisognerebbe dargli il Nobel dell'economia. Ancora con le note dell'oratorio di Natale di Bach, riprendiamo il nostro incontro di oggi. Buongiorno e buon pomeriggio a quanti ci ascoltano e buon Natale anche ad Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana. Abbiamo parlato nella prima parte appunto di Famiglia Cristiana e soprattutto del tema della famiglia che è nel cuore, nell'anima di Don Sciortino, anche perché Famiglia Cristiana, che ha dedicato al terremoto, alle famiglie colpite dal terremoto, il numero di Natale, dedicherà il prossimo numero, quello che uscirà l'ultima domenica dell'anno, al famiglia nominata personaggio dell'anno. Ci diceva, dopo Napolitano lo scorso anno, quest'anno avete scelto appunto una realtà, e diceva Don Sciortino, perché la famiglia merita molta più attenzione, è una realtà un po' in secondo piano nell'attenzione dei politici. La politica in questo periodo pensa molto ad altro, ma anche in periodi normali ha pensato e pensa poco alla famiglia, Don Sciortino. La famiglia meriterebbe molta più attenzione di quella che la politica, ma la stessa società, dedica ad essa, soprattutto se pensiamo che il nostro è un paese vecchio ormai, un paese che ha il tasso di natalità più basso al mondo, e spesso il calo della natalità si coniuga con la crisi economica, perché senza figli è difficile programmare il futuro, è difficile programmare l'avvenire, e questo paese si avvia, come hanno detto anche i vescovi in una loro nota, un suicidio demografico, e nessuno che pensa a programmare il futuro. Ma la famiglia, soprattutto in questo momento di crisi, è risultato essere il migliore ammortizzatore sociale, elemento che ha creato coesione nel paese, ha ammortizzato problemi di assistenza di anziani e di disabili, dove vengono a mancare gli aiuti da parte delle istituzioni, quindi con un carico totalmente sulle spalle delle famiglie. Ma soprattutto la famiglia ammortizza uno dei più seri problemi di questo paese, di cui chi ha la responsabilità della cosa pubblica dovrebbe farsi carico da subito, che è quello della disoccupazione giovanile. Noi abbiamo pochi giovani, e questi pochi giovani davvero li trattiamo male. Fra qualche decennio il paese avrà 22 milioni di anziani e super anziani, e soltanto 8 milioni di giovani che non potranno portare sulle loro spalle il peso di una fascia così ampia di anziani. E allora, pensando al futuro, bisogna davvero investire sulla famiglia. Noi ci stiamo pregiudicando il nostro futuro non investendo sui giovani. Abbiamo 2 milioni di giovani che né lavorano né studiano, sono fantasmi. Di questi non si occupa e non si preoccupa nessuno, ma soprattutto la disoccupazione giovanile ha superato il 30% a livello nazionale, ma nelle regioni del sud ormai è addirittura arrivato al 50%, il che vuol dire che un'ampia fetta di questo paese, un giovane su due, non ha lavoro, non ha speranza di futuro, né può pensare a mettere su famiglia, perché nessuno ti dà credito se non hai uno straccio di lavoro. Allora, quando si parla di crisi della famiglia, bisognerebbe pensare che ai desideri dei giovani, perché in ogni inchiesta il desiderio della famiglia è sempre in cima ai nostri giovani, ma tra il desiderio e la realizzazione davvero c'è un abisso che la politica, la società dovrebbe colmare, ma per il proprio bene, per il futuro di questo paese. Ecco, infatti questo problema della disoccupazione sembra quasi paradossale. Abbiamo meno giovani, ma abbiamo più giovani disoccupati. Ma abbiamo più giovani disoccupati proprio perché ne abbiamo di meno, perché questa società non cresce, non riesce a crescere, non riesce neanche a produrre, e sono anni che ha una sostanziale stagnazione dal punto di vista economico, e quindi è strettamente collegato. Se ci fosse una crescita anche demografica, ci sarebbe una crescita anche economica e la creazione di posti di lavoro. Ma la cosa più grave è che quei giovani che comunque ce la fanno, ormai il futuro non lo cercano più entro i confini nazionali. Le migliori energie di questo paese guardano al loro futuro nei paesi oltre i confini, nei paesi dell'Unione Europea o oltre l'oceano. E questo vuol dire che noi ci stiamo davvero impoverendo, perché non stiamo pensando al nostro futuro. Per questo io insisto spesso su una maggiore responsabilità di coloro che sono chiamati alla gestione della cosa pubblica, perché bisogna guardare avanti, bisogna alzare lo sguardo, non limitarsi alle beghe da cortile, perché bisogna programmare il paese, bisogna pensare a cosa sarà l'Italia fra 10 anni, soprattutto tenendo conto anche della realtà nuova, come dicevo prima, degli stranieri. L'Italia che va programmata non a prescindere dagli stranieri che sono in mezzo a noi, ma a partire. Noi abbiamo i nuovi italiani, che sono questi bambini, figli di immigrati già di seconda e terza generazione, che sono nati nel nostro territorio, ai quali noi non abbiamo il coraggio, la forza e l'obiettività di riconoscere la cittadinanza. E questi sono italiani di fatto, sono i nuovi italiani, sono quell'iniezione di vitalità di cui il paese ha bisogno, ma la nostra casta politica è così miope che non riesce a riconoscere neanche un dato di fatto, e facciamo crescere questi bambini che sono italiani, i nuovi italiani, con un sentimento di ostilità nei confronti del paese che loro amano, e devono attendere i 18 anni per poter ricevere la cittadinanza che gli spettava già da prima. Ecco, Don Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, lei è stato spesso, qualche volta, non spesso, criticato per le sue prese di posizione politiche, ma si sente di dover prendere posizione politicamente su quanto fa la politica, con parole anche un po' dure, come le ha dette adesso, sulla politica che non riesce a muoversi? Ma la politica deve pensare al bene comune. Noi abbiamo smarrito totalmente il bene comune. Le cose vanno fatte per il bene del paese, per il bene dei cittadini, anche se questi provvedimenti dovessero in qualche modo danneggiare una parte. Il guaio di questo paese è che abbiamo degenerato la politica a interessi privati, a interessi di parte, e nessuno più pensa a quale è il bene del paese. Io non faccio distinzione di colore, penso che la politica dovrebbe davvero aiutare la famiglia, puntare la famiglia, perché se si aiuta la famiglia cresce il paese, se sta bene la famiglia cresce, sta bene il paese. La famiglia non ha colore politico, non è di destra, non è di centro, non è assolutamente di sinistra. È stata dimenticata quando era al governo la Democrazia Cristiana, ed è stata forse ancora più dimenticata negli ultimi anni. Certo, allora si pensava che la famiglia avesse in sé le energie per poter sopravvivere e farcela da sola, e in parte è vero, perché i nonni avevano delle riserve, i genitori negli anni 70-80 la famiglia poteva mettere da parte il 30% dello stipendio come riserva. Oggi mancano le famiglie il 30%, semmai, delle risorse per arrivare a fine mese. Per cui anche quando c'era una presenza così massiccia della DC, si pensava che la famiglia fosse un fatto privato, mentre bisogna cominciare a restituire alla famiglia quel ruolo sociale che le spetta e le compete. I figli non sono un fatto puramente personale, i figli sono la ricchezza del paese, e non capire questo vuol dire non amare, non voler bene al proprio paese. Ecco, una famiglia classica, diciamo, un modello classico di famiglia, forse i modelli che stanno presentando, che presenta molto spesso la televisione, non sono modelli così tradizionali, sono modelli di chi ha 2-3 famiglie, e quindi è una famiglia molto diversa. Forse a quel punto è anche sbagliato parlare di famiglia. Guardi, il problema dei figli, i genitori vorrebbero averne più di uno, però il problema serio in questo paese è che avere un figlio è un fattore di povertà, mentre altrove in altre nazioni un figlio è fattore di sviluppo e di crescita. In Italia siamo arrivati al punto aberrante che avere un figlio è fattore di povertà, e se pensi di mettere al mondo due figli devi mettere in conto il rischio di entrare nel tunnel della povertà, da cui è difficile uscire, perché mancano reti di protezione, mancano assegni ai familiari adeguati, mancano gli asili in nido. La donna col primo figlio è costretta a dover scegliere tra maternità e lavoro. E questo non è giusto. Cosa che in altri paesi riesce a non avvenire. In Francia o in Svezia ci sono tassi di natalità più alta e ci sono tassi di partecipazione al lavoro più alti che in Italia. Certo, perché hanno fatto e fanno tuttora una politica familiare strutturale, dedicano alla famiglia, alle politiche familiari in media il 2,4% del prodotto interno lordo, quanto l'Italia dedica alle politiche familiari. L'Italia cattolicissima, che si riempie tanto la bocca di famiglia, alle politiche familiari dedica l'1,12%. Siamo al di sotto della media e non riusciamo neanche ad essere equi, amichevoli nei confronti della famiglia per quanto riguarda il fisco, perché certo, lo Stato non distingue la composizione e a parità di reddito una famiglia con più figli e un single pagano le stesse tasse. La battaglia per il quoziente familiare è un fattore familiare, certo. Credo che sia una battaglia giusta per una maggiore equità, per una maggiore attenzione alla famiglia. Tutti a parole lo capiscono, i politici a parole lo capiscono, ma poi non fanno assolutamente nulla. Un'ultima domanda, don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana. Buon Natale, buon anno, lo diciamo spesso. Come unire questo buon Natale a questo buon anno? Come vede il 2013? Qual è l'augurio suo per il 2013? L'augurio è quello che dopo tanto rigore e dopo tanta crisi possano esserci segnali di speranza. Dopo tanti sacrifici fatti dalle famiglie italiane si possa cominciare un nuovo cammino di speranza per il futuro, che sia più equo, più giusto e di crescita e di sviluppo. E avere la possibilità di sperare vuol dire già fare un passo verso questa direzione. Speriamo di averlo fatto. Grazie a don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, che è stato con noi in questa antivigilia di Natale. Quindi buon Natale ancora a tutti quanti ci hanno ascoltato. Buon Natale a Fabio Cantadori in regia, a Luca Cremonesi in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buon Natale. Buon Natale a tutti.